Eccoci dunque al settimo pilastro, l'ipnosi. L'etimologia greca della parola ipnosi è hypnos, che tradotto significa sonno. L'attività primaria di chi è nel sonno, infatti, è, guarda caso, proprio il sognare. Quando desideriamo qualcosa di veramente speciale o difficile da raggiungere, ognuno di noi sta sognando ad occhi aperti. Vi sono molte forme per praticare, dalla medico-clinica alla meditazione guidata, oppure persino all'auto-ipnosi. Con musica, con immagini, con altri stimoli sensoriali. Tre ragioni per cui allenarsi costantemente al controllo della mente faccia la differenza tra il raggiungimento di una vita sufficiente oppure eccezionale. Primo, allenati a controllare i tuoi pensieri, così potrai controllare ciò che ti accade giorno per giorno. Secondo motivo, l'infinito potere della mente è sufficiente per farti raggiungere qualsiasi livello desiderato, sia esso il più elevato che il peggiore. Saper controllare la parte automatica della tua mente ti permetterà di essere vero decisore e protagonista della vita che vuoi vivere. Terzo, attraverso l'allenamento della mente è possibile sciogliere tensioni e recuperare le forze in tempi brevissimi. Anche per questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!